con Anna Maria Bilancia, sindaca di Priverno, per parlare del progetto Radure, spazi culturali lungo la via Francigena del Sud dal 21 giugno al 21 luglio 2019. Anna Maria, ben trovata. Grazie, grazie tante. Dicevi che Priverno è capofila di questo progetto che coinvolge più comuni, ci racconti? Sì, noi siamo come comune capofila di una rete di altri quattro comuni che sono Secce, Segni, Norma e Carpineto Romano, anche in collaborazione con la Compagnia delle Pini e la TCL, che è l'Associazione Teatri Comuni del Lazio, quindi una bella rete che ha lavorato intorno a questo progetto in risposta all'avviso pubblico della Regione Lazio per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. Con lo spettacolo dal vivo e alla fine è venuto fuori un grandissimo festival veramente di grande spessore culturale, di grandi suggestioni che in un mese, nei fine settimana, proporrà alle persone in questa forma itinerante ben 15 spettacoli tra concerti e opere teatrali. Andiamo in scena questa sera a Sette con spettacoli fatti da artisti bravissimi ma meno noti e poi continueremo per tutto il mese alternando spettacoli di artisti meno noti a spettacoli realizzati da grandi big. Ad esempio, domani a Sette andrà in scena Monica Guerritore con il suo Dall'inferno all'infinito. A Segni, il 30 giugno, avremo una bravissima cantante lirica inglese, Mary Beth Leverland. A Norma, il 6 luglio, Lavia di Radio Leopardi. A Carpineto, il 14 luglio, una lezione concerto tenuta da Nicola Piovani. E finiremo il 21 luglio a Priverno. Nel Parco Archeologico di Privernum andrà in scena con un concerto entusiasmante Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana. Questi grandi artisti saranno accompagnati con altri spettacoli da artisti, come dicevo, molto molto bravi ma meno noti, che sono le compagnie teatrali di Matuta Teatro, Acta Teatro e Le Colonne. E poi ci sono anche due cori polifonici, i Calenda Maia Chorus e i Coro Incanto. Come vedi, veramente una ricchezza di proposte ampia che vedrà su tutti questi luoghi della cultura che segnano la via Francigena dal sud, da Fossanova verso Roma, tutti questi luoghi, dicevo appunto, mi sono persa un po'. I luoghi sono luoghi della via Francigena del sud e sono luoghi importanti, abbazie, aree archeologiche, chiese, auditorium, tutti luoghi che sanno raccontare una storia e questo credo che sia una grande forza di questo festival. Quali sono stati i criteri di scelta degli spettacoli? Li abbiamo scelti cercando di alternare anche rispetto di quanto il bando richiedeva, perché richiedeva spettacolo dal vivo, le arti performative della musica, della danza e del teatro, di alternare questi linguaggi e di alternare anche l'importanza degli spettacoli rispetto alla notorietà degli artisti, ma anche per dare però assicurare una presenza di artisti meno noti per dare loro il giusto palcoscenico. Altro criterio è anche quello di aver scelto delle location adatte a fare da sfondo a spettacoli di questo tipo, che poi sono i luoghi più importanti dei nostri comuni. Come saranno suddivisi rispetto ai cinque comuni coinvolti? Ogni fine settimana saranno in tutti i comuni? Sono uno alla volta, Ah, uno alla cominciamo da volta, ok. Sette, come ho detto già prima, poi seguirà la settimana prossima, quella del 30 giugno, Segni, e il 6 luglio saremo a Norma, il 14 a Carpineto e infine il 20 e 21 luglio a Priverno e con questi appuntamenti il festival si concluderà. sperando che possa continuare l'anno prossimo, perché tra l'altro questo festival non solo porta queste proposte nei nostri territori così importanti in questa forma originale di valorizzazione anche dei luoghi storici, dei luoghi culturali dei nostri comuni, ma è anche stato un grande laboratorio di cooperazione, di collaborazione tra soggetti diversi e in primis fra questi enti, che è una condizione oggi sicuramente fondamentale per poter crescere come territori che ovviamente sono dei territori ancora non troppo conosciuti, che spesso vivono un po' all'ombra di Roma, e lavorare assieme dà la possibilità di essere più grandi, più attrattivi, di rendere un'immagine identificativa di un territorio più chiara, più esplicita e facilmente insomma riconoscibile anche da quei turisti che noi speriamo insomma di attirare anche con questo Festival di Radure. La cultura e il suo indotto tra spettacoli e luoghi può essere un volano per l'economia? Noi pensiamo proprio di sì, perché unire l'arte ai luoghi di cultura, che poi è una condizione voluta fortemente anche dalla Regione Lazio, che nei suoi avvisi pubblici ne fa proprio un requisito fondamentale per l'accesso ai finanziamenti, noi pensiamo che sia proprio la condizione che più possa valorizzare i nostri territori. Io ritengo che non ci sia uno scenario migliore per una rappresentazione artistica di un luogo bello e suggestivo, perché la bellezza del luogo esalta l'atto artistico e questo valorizza il primo. Poi l'arte, si sa, è un'espressione complessa, soggettiva, ma sicuramente legata alle emozioni, e l'arte viva, come il teatro, la musica, la danza, lo è ancora di più perché si alimenta e si suggestiona delle emozioni che produce. Quindi rendere vivo un luogo naturale o un luogo d'arte vuol dire potenziarne la valenza estetica e la capacità di attrazione, e d'altro canto la bellezza di questi luoghi valorizza lo spettacolo, per cui noi mettiamo in un'azione performativa tanti elementi attrattivi che possono valorizzare il luogo ma anche l'arte in se stessa. In chiusura ci puoi lasciare i riferimenti internet per saperne di più sul programma? Vedo che c'è il sito internet atcllazio.it. Sì. Allora, lì c'è tutto il programma e si può leggere, però se si vogliono avere anche delle risposte, il Comune di Priverno può darle. info@comune.priverno.latina.it. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Radure, spazi culturali lungo la via Francigena del Sud, dal 21 giugno al 21 luglio in 5 comuni. E un saluto e un ringraziamento alla sindaca Anna Maria Bilancia. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie tante, buon lavoro, a presto.